Italia in controluce. Buongiorno da Daniele Biacchessi, Italia in controluce, la cronaca italiana, secondo Radio 24. E oggi siamo in via Padova, a Milano, ma il nostro racconto si delinea su una prospettiva diversa, non quella della mera cronaca dei morti ammazzati nelle guerre tra bande di stranieri, dei problemi di sicurezza e controllo del territorio. La nostra è una prospettiva di integrazione. Paolo Piacenza. Oltre alle camionette di carabinieri e militari che pattugliano le strade dalle insegne in lingue straniere, oltre le facce multicolori e le tensioni di una convivenza difficile, oltre i problemi di sicurezza e il disagio sociale, intorno a Via Padova tante realtà rivelano che, nonostante tutto, l'integrazione è in atto. Dal 1922, in via Giacosa, dove un tempo sorgeva l'ippodromo, esiste la Casa del Sole. Ancora oggi, nel verde del Parco Trotter, questo istituto scolastico pubblico comprensivo elementari medie resta, sotto molti aspetti, una scuola modello. Ideata all'inizio del secolo scorso con l'obiettivo di applicare i principi dell'educazione all'aperto e di dare una risposta al problema dei ragazzi gracili, figli delle classi povere della grande città operaia, oggi la Casa del Sole è divenuto un vero e proprio laboratorio di integrazione. Il dirigente scolastico della Casa del Sole, Francesco Cappelli. Attualmente è una scuola a tempo pieno, integralmente a tempo pieno per la scuola elementare e a tempo prolungato per la scuola media. È una scuola che riflette la situazione del territorio. Riguardo in particolare ai bambini cosiddetti stranieri, noi abbiamo una percentuale del 50%. La percentuale fotografa il mix sociale del quartiere. Eppure, nonostante il disagio socio-economico che investe molte famiglie di stranieri, la situazione, dice Cappelli, è assolutamente gestibile. C'è un processo di stabilizzazione, perché in prima elementare il 90% dei bambini è nato a Milano, dei bambini stranieri. E hanno fatto le tre materne, noi abbiamo anche le materne che sono comunali, però sono dentro il parco. In prima media abbiamo bambini che al 90% hanno fatto almeno i 5 anni ultimi di scuola con continuità. Quindi l'impatto dal punto di vista della lingua o dei problemi didattici è assolutamente affrontabile. Per chi ha ancora problemi di lingua nella scuola esiste un laboratorio con insegnanti dedicati per le elementari come per le medie. Il nodo dell'integrazione, dunque, visto dai padiglioni del Parco Trotter, appare una sfida possibile e all'interno della scuola, sottolinea Cappelli, si intravede, si costruisce il futuro. I bambini imparano a crescere insieme, imparano a cogliere le diversità come ricchezza. C'è anche un'attenzione, ovviamente, chi insegna qui necessariamente deve sviluppare determinate attenzioni. Cappelli ci tiene a non dipingere una realtà bugiarda. Con i genitori, spiega, il confronto è a volte difficile, per ragioni di lingua, ma soprattutto per ragioni socio-economiche. Ma anche qui si vedono i primi segnali di svolta. Il Consiglio d'Istituto, abbiamo una mamma che tra l'altro è nata in Italia, cittadina italiana, eccetera, eccetera, però insomma ha origini arabe. Nelle assemblee di classe o nelle assemblee di scuola con i genitori io noto una presenza sempre più numerosa di genitori anche di altre nazionalità. Poi ci sono molte iniziative parallele, abbiamo un gruppo di mamme italiane che lavorano con le mamme arabe per insegnare loro l'italiano e per favorire una comunicazione. Da anni qui esiste anche l'associazione Parco Trotter, promossa dai genitori. E il parco ospita attività e azioni sociali che coinvolgono una vasta rete di soggetti sul territorio. Noi abbiamo contatto con tutte le cooperative sociali del territorio che si occupano dei vari fenomeni collegati alle difficoltà o alle devianze piuttosto che altro. In questi giorni, con i recenti fatti di Via Padova, siamo stati interpellati più volte per capire quanto questo contorno influisca negativamente sulla scuola. Io ribalto dicendo che forse è la scuola che può influire positivamente sul resto. Lo sa anche il Comune di Milano, che ha scelto la Casa del Sole come una delle 4 scuole capofila del progetto START per coordinare le iniziative di integrazione costruite dal sistema scolastico. Certo, le difficoltà restano. La clandestinità, che spesso scaturisce dalla perdita del lavoro, si aggiunge a un disagio economico e sociale diffuso che resta l'ostacolo principale alla vera integrazione. Tutto ciò ha riflessi anche sulla scuola, naturalmente. Ma i casi di ragazzi problematici sono in percentuali minime e comunque uguali a quelle di altre zone di Milano. Piuttosto, fuori dai cancelli, si può fare di più. C'è il mercato selvaggio dell'affitto, in nero. Ci sono vie famose o diventate famose dove c'è chi specula in maniera indegna sull'abitazione. Una sicurezza, una sorveglianza meno, come dire, forse militarizzata, ma più capillare sul territorio, no? Il famoso vigile di quartiere, che se ne parla tanto, se ne è parlato, ma non esiste di fatto. Manca una gestione delle periferie, o quelle diventate tali, perché qui siamo a 2 passi dal centro, L'aspetto della criminalità lì non si discute, quello va repressa, va perseguita, ma le condizioni che possono favorirla, quelle sì, si può intervenire, si deve intervenire. Italia in controluce. Parliamo di storia italiana, di un negoziato segreto tra Germania e forze alleate durante la Seconda Guerra Mondiale. Che cosa hanno ricevuto in cambio i nazisti? E che cosa gli è stato promesso in cambio della loro collaborazione? A queste domande risponde per la prima volta uno storico, Pino Adriano, nel suo libro L'intrigo di Berna, edito da Mondadori. L'intrigo di Berna è una partita a poker, mi piace definirla così, una partita a poker lunga, estenuante, complicatissima, fra i servizi segreti americani, da un lato, l'Official Strategic Service di Allen Dulles a Berna, e i servizi segreti tedeschi delle SS, che in questo caso sono rappresentati da Karl Wolf, generale delle SS, pupillo di Hitler e di Himmler, e plenipotenziario in Italia. Una vicenda che si svolge negli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale e che ha come bottino questa partita la fine della guerra in Italia. Una sorta di resa a condizioni ben prima di quella che poi si è vista intorno all'aprile del 1945. Esattamente. Ora, questa partita che i storici conoscono come Operation Sunrise è il nome che gli americani danno a questa trattativa segreta. Documenti, soprattutto quelli più recenti, desecretati negli ultimi tempi, mostrano come alcuni documenti in particolare, come i diari dattiloscritti di un ufficiale, un tenente delle SS che partecipava a questa operazione, mostrano come i servizi segreti tedeschi fanno partire questa manovra nell'autunno del 1944, fanno già dei primi contatti, dei primi assaggi in Svizzera verso inglesi e tedeschi, e appunto in quel periodo, e arrivano a elaborare la loro operazione, che non è Sunrise per loro, ma è Operation Volle Lana, la fanno partire ai primi di novembre. Italia in controluce termina qui, le puntate disponibili su www.radio24.it, Radio 24 Italia in controluce, il gruppo di Facebook, la mail controluce@radio24.it. A risentirci oggi 13:30.